Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci, seconda puntata di questa stagione con Nessuna è perfetta, dopo il caffè della domenica, che è la novità di questo anno, l'avete appena ascoltato, e noi invece adesso in questa seconda puntata di Nessuna è perfetta ci occupiamo di che? Di che cosa? Beh, ovviamente di quello che interessa a tantissime nostre ascoltatrici, il ritorno a scuola. Chi non ha un figlio a scuola, un nipote a scuola, un figlio di amici che comincia le scuole? Ecco, parliamo anche di questo, ritorno a scuola, ma soprattutto che cosa significa per il nostro paese pensare al futuro attraverso la formazione. Intanto è il momento però di ricordarvi che tutto quello che pensate di questo tema, di quello che diremo in questa puntata, ci fa piacere se lo condividete con noi all'800 28 12 12. Lo sapete, il numero della nostra casella vocale 800 28 12 12, e i vostri messaggi poi noi li commentiamo la domenica successiva. Sono una vecchia nonna di 4 bei nipoti che, come tanti bambini in questo periodo, sono stati a casa da scuola. Mi rivolgo a lei perché mi sono resa conto che, come me, è piuttosto sensibile al tema. Ma questi giovani ragazzi, bambini, riusciranno a colmare il gap culturale che si è venuto a creare per l'assenza scolastica che hanno involontariamente subito? Grazie Maria. È una delle mie preoccupazioni, e chi segue Radio 24 sa che l'anno scorso, nella mia presenza quotidiana al mattino, continuavo a ribattere, perché scuole chiuse significano gap culturale nella formazione che purtroppo rimarrà. Cerchiamo di recuperarlo molto rapidamente, e conta tutto quello che ci mettono gli insegnanti, conta l'attenzione che ci metteranno le famiglie. Per quanto riguarda i contagi, l'abbiamo detto, il rischio zero non esiste. Più che sui contagi, il primo giorno di scuola io vorrei che lo guardassimo con i nostri ragazzi come l'inizio del percorso che poi li aiuterà a diventare degli adulti con un lavoro, si spera. (800) 28 12 12 è il numero della nostra casella vocale. Aspetto i vostri messaggi, e ora è il momento della nostra Sunday Girl. Buona domenica a un'amica che torna, buona domenica a Serena Bortone, che dopo aver ideato e condotto per 3 anni un programma che con lei era diventato veramente imperdibile, Agorà, beh, da quest'anno è su Rai 1 al pomeriggio con Oggi è un altro giorno. Buongiorno e buona domenica, Serena. Buongiorno e buona domenica a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Potremmo dire, Maria, sono molto contenta di essere di nuovo qui con te, che Oggi è un altro giorno e Nessuna è perfetta sono due titoli cinematografici, non sono titoli ma sono frasi, diciamo, prese o mutuate dal cinema, che ci rispecchiano molto, no, a noi donne, e siamo felici di poterlo ma dire. Sì, Nessuna ma è perfetta, sì. E oggi è un altro giorno, viviamo la nostra vita fino in fondo. E ogni giorno ci procura, come dire, delle prove dalle quali ricominciare. Il paese si affronta la ripresa dopo mesi di lockdown con tante incertezze sul futuro economico, ma io con te vorrei cominciare da quella che mi sembra una riapertura importante, importante per le famiglie, importante per i nostri ragazzi e, quello che non si dice mai abbastanza, Serena, importante per il paese, perché se noi continuiamo ad avere scolari che in media sono meno preparati degli altri, e beh, avremo generazioni che faticheranno a trovare un lavoro e saranno costretti a cedere il passo ad altri giovani di altri paesi e di altri continenti, ma poi avremo un paese che faticherà a uscire dalla crisi. Allora, com'è questo primo giorno di scuola, secondo te? Come lo vedi? Allora, io lo vedo un misto di preoccupazione da parte di tutti, perché la preoccupazione è forte, ovviamente, da parte delle famiglie, come un giorno di liberazione davvero anche per i ragazzi, perché comunque rientrare in classe è un rientro alla normalità. E tu hai perfettamente ragione di sostenere che questa è la sfida per il futuro, te l'hai sempre detto anche quando appunto eravamo chiusi, perché purtroppo sappiamo che il rischio zero non esiste, ma noi non possiamo rischiare nemmeno di appunto non perdere la nostra, che i nostri ragazzi perdano la nostra sfida con il futuro, perché come sistema paese non ce lo possiamo permettere, ecco, proprio no. Quindi liberazione, timore, che comunque è anche bene che ci sia, perché poi mantenere un po' di timore purtroppo serve, perché ci aiuta a essere coscienti. È una sensazione orribile, più responsabili, Più responsabili, non è una bella sensazione, perché no, noi lavoriamo tutti i giorni nei luoghi chiusi con le mascherine, io faccio il mio gruppo di lavoro, tu il tuo gruppo di lavoro, però dobbiamo fare, quindi pazienza, la gioia della vita c'è sempre. E quindi sicuramente di riscatto anche, ecco, il terzo punto lo vedrei come un punto di riscatto, se si riesce a vincere questa sfida, il che non vuol dire, ahimè, che non ci saranno cluster, purtroppo succederà, però se saremo in grado di capire come funziona, di contenerlo, di organizzarci, è un problema in più, però dovrebbe essere una sfida di coraggio, non dovrebbe essere un motivo per tirarci indietro o per chiuderci ancora di più, ecco. Questo credo che anche gli insegnanti ce l'abbiano ben chiaro, certo. Sono stati in questi mesi bravi nel tenere il rapporto con gli studenti a distanza, ma in qualche modo sono stati anche, lasciami dire, un aggettivo che non piacerà, però insomma in qualche modo sono stati anche aiutati, perché nessuno ha più di un insegnante ha potuto continuare ad avere la sua vita, il proprio lavoro, la propria retribuzione, in qualche modo essendo anche protetto. Adesso è arrivato il momento di dare, di restituire alla comunità tutta l'esperienza che questi insegnanti hanno, e a loro, oltre che alle famiglie, va sicuramente il nostro in bocca al lupo e il nostro incoraggiamento. Ah, senti Serena, com'è essere passati da un programma del mattino a un programma del pomeriggio su Rai 1, la rete ammiraglia della Rai? Qualche vantaggio, oltre al fatto di essere sulla rete ammiraglia, cioè ti svegli un po' più tardi almeno? Ecco, esatto, quello è il primo punto. No, guarda, devo dirti, vabbè, apro e chiudo parentesi, parliamo sempre di una posizione ovviamente di grande prestigio, di grande privilegio, quindi non è che mi stavo lamentando di quello che ho fatto finora, però confesso che svegliarsi tutte le mattine alle 5:30, poi io sono una che va a dormire tardi, ho un metabolismo lento, la pressione bassa, per cui andavo a dormire tardi, spesso continuando a lavorare, a leggere, a messaggiarmi con i miei, queste chat che ci invadono, no? Ognuno di noi ha la sua chat che l'angoscia, ogni persona al mondo un giorno dovremmo scrivere un manuale di comportamento, di riflesso psichico sul valore delle chat, che ci costringe a essere sempre sul pezzo, mentre invece l'evanescenza delle volte è fondamentale nella vita, perché poi ti aiuta anche a ricaricare le energie. Comunque, quindi quello sicuramente c'è. Devo dirti, Maria, che allora, da Rai 3 a Rai 1 è un'esperienza che sto vivendo con uno spirito di grande anche curiosità, che secondo me è la forza della vita. Allora, ovviamente non faccio la politica e l'economia come facevo prima, tu sei stata tante volte una delle brillantissime ospiti, e come appunto allo stesso modo, perché sarebbe, diciamo, una cosa crudele per il pubblico del post pranzo che no, nel pomeriggio è un pubblico diverso, certo. Ma certo, ma si vogliono riposare, si vogliono rilassare, c'è un po', c'è più leggerezza e c'è anche più memoir, più ricordo della nostra storia, è una cosa diversa rispetto a quello che facevo, ma a me piace tantissimo entrare nelle vite delle persone, quindi mi piace raccontare le storie, mi piace sviluppare la parte sulle relazioni, che soprattutto in questo momento devono essere vive, perché poi le relazioni siano d'amore, d'amicizia, ma anche le relazioni con una passione, la passione per la musica, la passione per i libri, no? Sono tutti elementi che ci consentono, soprattutto in tempi incerti, di ritrovare noi stessi e di ritrovare le proprie energie e speranze. Ecco, questa parte mi piace moltissimo, poi faccio anche una parte più politica, più leggera, ovviamente più di attualità strettissima, più hard news. A proposito di attualità, Serena, dimmi. Non c'è dubbio che il fatto di attualità che ha impressionato, fatto riflettere, preoccupato tutti noi è quello che è accaduto a Colleferro a Willy, il ragazzo che è stato massacrato, ucciso a botte da uomini giovani. L'inchiesta è ancora in corso. Io vorrei chiederti, purtroppo capita nella nostra provincia e nelle grandi metropoli che maschi violenti, maschi violenti non abbiano evidentemente nessun autocontrollo. In molti casi c'è di mezzo il consumo e l'abuso di cocaina e di altre droghe. Noi non sappiamo se questo sia stato il caso, ma vorrei da te una fotografia di quel che è successo a Colleferro. Non so se c'è una spiegazione, però una fotografia la possiamo dare. Esatto, il fatto che non ci sia una spiegazione rende tutto ancora più atroce, perché la violenza è sempre ovviamente in ogni luogo condannabile, in ogni modo condannabile, la violenza insensata, cioè senza un motivo che in qualche modo, non perché la violenza con una spinta sia giustificabile, ma perché la analizzi e quindi ti dai una spiegazione. Qui non c'è la spiegazione, qui è odio puro. E poi la cosa che ci ferisce ancora più dolorosamente è il sorriso di questo ragazzo che era intervenuto per aiutare un amico, che è proprio la vittima indifesa. Ecco, non so neanche dirti se questa violenza sia un segno dei nostri tempi o sia all'arancia meccanica un segno comunque di tutti i tempi, purtroppo. Certo è che ad esempio ha aperto un dibattito anche sui luoghi nei quali si praticano alcune discipline. L'uomo violento deve essere riportato a casa, perché se, ovviamente non siamo noi a dover dire chi sono i colpevoli, perché questo lo stabilirà la magistratura, ma ci sono dei testimoni che uno ha anche parlato da noi e oggi un altro giorno, quindi una fotografia la possiamo fare, come dici tu. Ecco, la cosa che ci lascia sgomenti è l'idea che persone che peraltro tutti conoscevano come attaccabrighe, violenti, un giudice, un vigile ha raccontato che era stato malmenato perché aveva detto a uno di loro di mettere la mascherina, ecco, che tutto questo possa andare avanti in modo impunito, che non ci sia la possibilità sociale, ecco, di portare a una situazione di normalità, di tranquillità, di convivenza pacifica delle persone che danno già segnali di pericolosità. Ecco, non voglio credere una società che definisca l'individuo, no? Perché che non sappia reagire. No, però anch'io penso che i campanelli di allarme, quello sì, però, no? Certo. E penso che la reazione della comunità di Colleferro, la riprovazione totale e il fatto di interrogarsi, perché ripeto, il lato peggiore dell'essere umano non è aiutato dall'assunzione di droghe, anzi la cocaina fa esplodere persone che magari normalmente non sarebbero violente. Anche su questo sarà bene interrogarsi. So che la trasmissione di Serena Bortone lo farà tutti i pomeriggi con la consueta bravura della sua conduttrice, quindi pomeriggio, Rai 1, oggi è un altro giorno. Buona domenica Serena e grazie per essere tornata da noi a Nessuno è Perfetta. Contenti gli insegnanti, pur fra mille preoccupazioni. Bellissimo. Cioè, devo dire, rivederli ho detto, ah, meno male, allora la scuola ha un senso. Contenti gli studenti, anche se seduti al banco con la mascherina. Sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione rivedere i miei compagni. Nella didattica a distanza quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però, vabbè, è stato appunto necessario. E contenti anche i dirigenti scolastici, alle prese con una sfida senza precedenti. Sì, secondo me è stato bello rivederli, siamo contenti perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assoluta, abbastanza inutile. Radio Day, lunedì 14 settembre. Nei GR e nei programmi le voci dalle regioni in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze, ma che rappresenta anche un'opportunità per fondare una nuova scuola. Appuntamento il 14 settembre su Radio 24. Nessuna è perfetta. E a proposito di scuola, di formazione e di ritorno a scuola domani lunedì, è con noi, e lo ringraziamo per questo, Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano. Buona domenica, Brugnoli. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Dunque, domani riaprono le scuole. E è un momento in cui c'è da un lato la preoccupazione delle famiglie per la questione sanitaria, la preoccupazione degli insegnanti che si sentono anche a rischio, ma c'è soprattutto una grande scommessa, perché dopo mesi di scuole chiuse, distanziamento e lezioni a distanza, ora bisogna recuperare il tempo perduto. Qual è la sua posizione sull'impegno che ormai è chiaro a tutti, finalmente col Covid si è capito, sull'impegno che il governo deve mettere nella formazione, nell'istruzione per reggere la competitività anche del paese? Beh, l'istruzione e la formazione è un driver di crescita del nostro paese. Per troppo tempo il nostro paese ha tagliato le risorse nei confronti dell'istruzione, della scuola. E soprattutto si è perso anche quel legame strategico tra scuola e mondo datoriale, quindi le imprese, perché poi gli studenti andranno come punto di caduta ad essere dei nuovi imprenditori o dei collaboratori. Quindi la campanella di domani è sicuramente una campanella molto importante, non solo per le famiglie e per i ragazzi, ma per il paese. E dobbiamo dare anche un segnale di concretezza. E qui il tema si sviscera su alcune possibilità e su alcune problematiche. Il fatto di programmare anzitempo l'apertura delle scuole con una programmazione per quanto riguarda la sicurezza probabilmente poteva essere effettuata in maniera anticipata, perché tutti sapevano ed erano coscienti che il 14 di settembre, o giorno più o giorno meno, le scuole dovevano riaprire, e quindi tutto quello che era programmabile in termini di hardware, ovvero i banchi, le sanificazioni, le mascherine, il distanziamento, potevano essere presi dei protocolli come quelli delle imprese che hanno distanziato, hanno differenziato gli accessi nelle imprese, e lì è stato certificato che le imprese sono dei luoghi sicuri dove andare ad operare. E questo sotto l'aspetto dell'hardware. Però ci stiamo dimenticando purtroppo dell'aspetto della didattica. Cosa andremo e come andremo a effettuare la didattica? Perché noi abbiamo chiuso le scuole l'8 di marzo per il lockdown, l'anno scolastico è terminato l'8 di giugno, però non si è fatto quel trade union di formazione dei docenti per quanto riguarda la tipologia di didattica che potrebbero andare a esercitare durante l'anno scolastico. Dottor Brugnoli, ai genitori, alle famiglie che ci stanno ascoltando, e anche appunto agli studenti che magari sono un po' più grandi e che pensano al proprio futuro. Dai dati che Confindustria ha, dalle ricerche che sono nelle vostre mani, che consiglio darebbe per chi deve appunto cominciare un istituto superiore quest'anno o l'anno prossimo iscriversi a un istituto superiore? Più tardi avremo con noi Ersilia Vaudo Scarpetta, che è un alto dirigente dell'Agenzia Spaziale di Parigi, e con lei parleremo dell'importanza delle materie scientifiche. Ma vorrei sentire qual è la vostra opinione, che cosa sapete voi, che cosa serve al lavoro del futuro come formazione dei nostri studenti? È una formazione che continua a cambiare perché le esigenze delle imprese continuano a cambiare. Per essere competitivi sui mercati internazionali le imprese continuano a cambiare pelle, cambiare modelli produttivi, macchinari e quant'altro. Quindi la formazione deve essere al fianco delle imprese, e quindi ai ragazzi chiedo loro di essere più curiosi insieme alle loro famiglie, di interrogarsi quanta manifattura c'è presente sui propri territori, per poi andare a cercare quella tipologia di istruzione che rende il ragazzo occupabile un domani quando finisce un istituto tecnico, un liceo, per poi andare in un'università o in un IPS che forma quei tecnici specializzati che sono la chiave del successo delle nostre imprese. Noi purtroppo abbiamo troppo pochi diplomati IPS, abbiamo circa 11.500 iscritti l'anno e formiamo 2.500 diplomati, ma abbiamo anche troppo pochi laureati nelle lauree STEM, nelle lauree tecniche, quelle lauree che nel nostro paese, con tutta la manifattura che abbiamo, perché siamo ancora il secondo paese manufatturiero d'Europa, abbiamo fortemente bisogno. Non è possibile che noi abbiamo una disoccupazione giovanile che è al 31% e dall'altra parte imprese che non riescono a trovare tecnici specializzati o laureati. Ecco, infatti proprio di questo parleremo tra poco con Ersilia Vaudo Scarpetta. L'ultima cosa che le vorrei chiedere, dottor Brugnoli, lei è padre di 3 figli, come ha vissuto questi mesi di lockdown con loro e che cosa si aspetta dall'inizio delle scuole? I miei 3 figli, 2 sono già grandi perché la mia grande lavora a Parigi e quindi è fuori casa, l'altro si sta laureando alla magistrale, quindi vive fuori casa anche lui, ho un terzo a casa che affronterà la quarta superiore e ho detto a lui di stare molto attento e attenersi ai protocolli sanitari che la scuola impone e soprattutto di essere flessibili nelle modalità di insegnamento che si troverà ad avere durante l'anno scolastico, perché speriamo di no, ma ci potrebbe essere la possibilità che per possibili casi Covid o per distanziamento una parte della didattica possa avvenire a distanza. E ho detto lui di mantenere alta l'attenzione, la propensione all'ascolto e al cambiamento, proprio per intercettare questo momento della sua vita come un'opportunità per formare la propria persona, perché è evidente che per un ragazzo di quarta superiore non frequentare quotidianamente e con la stessa socialità che un 17enne ha è anche questo un passo ulteriore verso la formazione dei nostri ragazzi. Non sempre ci sono le cose che vogliamo, che desideriamo, ma dobbiamo essere sempre propensi ad accettare questi cambiamenti, farli propri e viverli nel migliore dei modi. E soprattutto il punto è proprio questo. Auguro domani il più bel giorno dell'anno, l'apertura delle scuole, tutti in sicurezza, che siano tutti prudenti con il distanziamento, con le mascherine, con le sanificazioni, ma soprattutto con la voglia di apprendere, perché ormai, oggigiorno, l'apprendere è un cammino continuo della nostra vita. Non si fermerà mai dopo un diploma, dopo una laurea. Per tutti noi, assolutamente. Per tutti noi. Grazie a Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano, e buona giornata, buona domenica. Grazie anche a lei e a tutti i radioascoltatori. Arrivederci. I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, benvenuta, anzi bentornata ad Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica, Chief Executive Officer dell'Agenzia Spaziale Europea. E dal 7 all'11 settembre a Napoli si è svolto un evento che mi piace molto raccontare, Forcella Brilla, un campo dedicato alle ragazze e ai ragazzi che hanno particolari interessi per le materie STEM, le materie scientifiche. Ed Ersilia Vaudo Scarpetta è stata tra gli organizzatori insieme a Riccardo Monti, insieme ad Alessia Mosca. Ci racconti, e buongiorno Ersilia, buona domenica, buongiorno. Ci racconti com'è nata e che cosa è successo a Forcella, chi c'era, quali ragazzi c'erano? Allora, sì, questo è stato un esperimento, devo dire, straordinario, perché abbiamo voluto portare le materie scientifiche in un luogo che comunque è un luogo a grande disagio sociale, questo quartiere di Napoli, Forcella, dove esiste però già una realtà di recupero, di accoglienza, che è rappresentata dalla Casa di Vetro, che è appunto una struttura magnifica che è stata inaugurata l'anno scorso e che già offre appunto la possibilità ai ragazzi del quartiere di andare, di studiare, di fare sport, eccetera. Quindi abbiamo voluto scegliere questo luogo simbolico per esporre, per dare, diciamo, la possibilità a questi bambini, che l'età andava dagli 8 ai 12 anni, di avere un'esperienza di esposizione alla scienza, però non scolastica, non secondo, diciamo, appunto lo spirito di ok, oggi andiamo a scuola, ma piuttosto il divertimento e lo sporcarsi le mani. E questo è stato appunto in realtà quello che è successo: grande divertimento, grande entusiasmo di bambini che non hanno appunto necessariamente queste esperienze, anche grazie appunto ai ragazzi che poi si sono occupati dei contenuti. Questo gruppo si chiama Space 42, che ha lavorato appunto nella comunicazione anche della scienza rispetto ai bambini. Devo dire che è stato incredibile, voglio fare un piccolo, diciamo così, esempio della straordinarietà e dell'attenzione di questi bambini. Il primo giorno appunto è stata la giornata spazio, quindi io sono andata a raccontare l'universo, i misteri dell'universo, la velocità della luce, e quando ho finito una bambina durante la pausa si è avvicinata a me e mi ha detto: senti, ma ho capito la velocità della luce, ma la velocità del buio? Sì, quindi mi è sembrata una cosa Ersilia, devo chiederti tra tutte le associazioni che hanno collaborato e aiutato a realizzare Forcella Brilla, ne cito una, Minima Moralia, ma anche l'altra Napoli, vogliamo far capire agli ascoltatori di Nessuna è Perfetta in breve, no? Tu che lavori appunto a Parigi all'Agenzia Spaziale Europea, perché per l'Italia, come per tutti gli altri paesi, ma noi parliamo di casa nostra, è importante avere dei ragazzi preparati sulle materie scientifiche, che si diplomino in istituti che li formano bene e che facciano magari poi l'università nelle materie scientifiche? Perché la crescita di un paese dipende anche dalla formazione scientifica dei suoi cittadini? Perché per vari motivi. Innanzitutto c'è un motivo appunto di possibilità future. Noi sappiamo che comunque una gran parte dei mestieri del futuro saranno richiederanno delle competenze tecnico-scientifiche, mestieri che magari ancora non esistono oggi, ma che invece saranno in grande richiesta domani. C'è una capacità occupazionale enorme, cioè sono i mestieri nei settori STEM, quelli a più alto tasso di occupazione e anche di crescita salariale, quindi c'è proprio un percorso, diciamo, di empowerment economico che è molto forte, ma c'è anche il fatto appunto di essere muniti, di poter occupare in qualche modo quegli spazi dove si immagina e si rende possibile il futuro, anche se non si vuole, diciamo, poi comunque continuare necessariamente in un settore estremamente tecnico, però quel tipo di competenze offriranno una scelta molto più ampia e molto più grande rispetto ai percorsi che si vorranno seguire. Questa cosa è importante e ci tengo a sottolineare. Sì. In chiusura, perché purtroppo il tempo è tiranno, in Francia investiranno molto dei soldi che arriveranno con Recovery Fund nella formazione, e la stessa cosa è stata promessa proprio dal Presidente del Consiglio e dalla Ministra Azzolina a proposito dei finanziamenti che verranno utilizzati con Recovery Fund. Ci dici in un secondo che cosa fa la Francia sulle STEM per attrezzarsi alla formazione dei suoi giovani in vista dei lavori del futuro? Sì, allora la novità, ci tengo a sottolinearlo, la Francia ha dichiarato la matematica priorità nazionale 3 anni fa, perché un paese debole in matematica non solo è più debole economicamente, ma anche i suoi ragazzi saranno dei cittadini in qualche modo meno pronti o più pronti a delegare, e questo non fa bene alla democrazia. Una cosa nuova da menzionare è che in Francia si comincia a parlare di una nuova disciplina che si chiama la neuroeducazione. E il ministro dell'educazione ha infatti istituito un consiglio in cui sono stati messi insieme ricercatori in psicologia cognitiva, matematica, informatica, filosofia, proprio perché si vuole poter utilizzare tutte le cose che abbiamo comunque, che stiamo capendo rispetto al modo in cui il cervello del bambino funziona, per poter avere un modo di insegnare la matematica che è un abilitatore di STEM in modo diverso, in modo più adatto alle capacità dei bambini piccoli. Quindi questa è una grande idea, un grande passo in avanti verso uno STEM inclusivo. È una novità che tornerai a raccontarci meglio prossimamente qui a Nessuno è Perfetta. Grazie ad Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica e Chief Executive Office dell'Agenzia Spaziale Europea a Parigi. Buona domenica. Grazie a voi. Grazie a tutti per essere stati con noi anche in questa puntata di Nessuna è Perfetta. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie alla nostra Gaia Romani. Vi aspetto come sempre domenica alle 10 con il caffè della domenica, e domenica prossima ci sarà un ospite non politico, perché è il giorno in cui si terrà il referendum e in molte regioni si voterà. E poi, come sempre, dopo il caffè della domenica ci sarà Nessuna è Perfetta. Allora ci sentiamo domenica prossima, sempre qui su Radio 24. Ciao! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.